Focus Economia. Le 17:09 minuti, 9 secondi. Buonasera gentili ascoltatori da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia, che così come quella di ieri, così come quella di domani e poi di giovedì andrà in onda in parte da Milano e in parte da Shanghai, dove si sta svolgendo la terza missione imprenditoriale italiana in Cina. Più avanti ci collegheremo con Sebastiano Barisoni e con i suoi ospiti. Gli altri temi trattati in questa puntata: la borsa, naturalmente, che è andata decisamente meglio rispetto alle premesse. In mattinata Milano è arrivata a perdere un 3,5% circa. In questo momento il FTSE MIB cede l'1,26%, anche sulla scorta di Wall Street, che ha aperto abbastanza bene, negativa all'inizio. Adesso il Dow Jones guadagna lo 0,33%. Un po' di nervosismo circola sul mercato dei cambi. L'euro quota 1,22,8 contro dollaro in questo momento. E poi l'altro tema che toccheremo è quello dell'occupazione. Questa mattina l'Istat ha diffuso i dati, c'è stato un peggioramento, ci sono diverse interpretazioni, tra cui quella del ministro del welfare Maurizio Sacconi, il quale sostiene che in realtà è aumentato il numero delle persone in cerca di occupazione. Cercheremo di approfondire anche questo e poi appunto naturalmente la missione italiana in Cina. Naturalmente occupazione, c'è molto importante il dato sulla disoccupazione giovanile, che è ai massimi dal 2004, il 29,5%. Prima di tutto le notizie in breve di questa giornata. Male il petrolio, in apertura in calo a New York, meno 1,6% a $72,77 al barile, in una giornata molto nervosa per quanto riguarda il settore petrolifero. Pensate che BP, anche sulla scorta di quel che sta succedendo nel Golfo del Messico, è arrivata a perdere in giornata il 14% sulla borsa inglese. Dell'euro si accennava, netto ribasso contro dollaro e sterlina, la moneta europea scese fino a 1,2154 contro il dollaro, 1,2283 come vi dicevamo poco fa. In questo momento, per quanto riguarda la sterlina, è piombata sotto la soglia di 84 pence, nella fattispecie adesso quota a 83 pence e 62. Sempre dai mercati un dato interessante, un nuovo record per i credit default swaps. Che cosa sono? Sono gli strumenti finanziari con i quali un soggetto che ha in portafoglio alcune obbligazioni si assicura contro il fallimento dell'emittente, indicano in punti base il costo della protezione. Parliamo dei credit default swaps sul debito sovrano dell'Italia, che sono balzati di 33 punti base a un record di 239 punti. Sarebbe in arrivo, a quanto si apprende, una nuova stretta di Bruxelles sulle agenzie di rating. Per quelle che non rispetteranno le regole europee e che saranno giudicate colpevoli di aver favorito la speculazione sui mercati, sarebbero in arrivo appunto multe salate e pesanti sanzioni fino alla sospensione della licenza ad operare nei paesi europei. Questa è solo un'indiscrezione dell'ANSA. Vedremo se poi avrà concretezza. Sempre dall'Europa, dati sulla disoccupazione, un record per la disoccupazione della zona euro, che ad aprile sale al 10,1% dopo il 10% registrato a marzo. Nell'intera Europa è al 9,7%. Per quanto riguarda la Germania invece si registra un calo, il tasso di disoccupazione è al 7,7% contro il 7,8% del mese prima. L'Italia invece, la disoccupazione in aprile è all'8,9%, al top dal 2001. Per quanto riguarda i giovani già si diceva al 29,5%, al massimo dal 2004, un aumento di 1,4 punti percentuali rispetto al mese precedente. Anche questo è un tema che approfondiremo. Ne parla la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, che dice che potrebbe aver raggiunto il picco più alto e da ora cominciare a discendere. Così appunto la presidente degli industriali, che basa questa analisi anche sui dati diffusi dal centro studi di Confindustria, che stima una crescita della produzione industriale in maggio del 2,4% su aprile, quando si era avuto una variazione positiva dello 0,8%, e quindi un dato particolarmente positivo. Parleremo di Cina tra poco. Nel frattempo si apprende che la Honda, la compagnia automobilistica giapponese che dalla settimana scorsa ha sospeso la produzione nelle sue fabbriche nel sud della Cina a causa di uno sciopero degli operai abbastanza insolito per la Cina, ha presentato un'offerta agli scioperanti e a quanto pare gli operai hanno accettato la proposta che prevede un aumento dei salari del 24%. Questo anche per dare un'idea di come la stessa Cina cambia. Da segnalare anche di oggi la notizia, e questa arriva dall'Italia, che sono due, quella di Ansaldo Breda insieme a Bombardier e quella di Alstom, le offerte selezionate dalle Ferrovie dello Stato per la commessa di 50 treni di altissima velocità del valore di 1,2 miliardi di euro. Lo ha detto l'amministratore delegato delle Ferrovie, Mauro Moretti, dopo che questa mattina sono state aperte le buste delle molte offerte arrivate. E veniamo al primo tema di questa giornata, ossia la Cina. Ha preso il via due giorni fa, per terminare il 4 giugno, la terza missione imprenditoriale italiana in Cina, dopo quella del 2004 e del 2006, organizzata da ICE, Confindustria e ABI. Sono presenti 230 aziende, oltre 600 imprenditori, 9 gruppi bancari e 18 associazioni industriali che appartengono a tutti i settori del Made in Italy. Colleghiamoci allora con la Cina, con il nostro Sebastiano Barisoni, che sta seguendo questa terza missione nel paese. Buonasera Sebastiano, a te la linea. Sì Simone, buonasera a te e ai nostri ascoltatori, e nonostante la cattiva giornata di borsa, noi continuiamo il nostro viaggio in Cina. E se ieri ci siamo occupati delle testimonianze degli imprenditori, anche e soprattutto piccoli, italiani che operano in Cina, nelle diverse fasi in cui si sta sviluppando la presenza italiana in Cina, oggi torniamo a occuparci dei grandi numeri di questo paese che oggettivamente si ha anche difficoltà a definire come un paese, assomigliando più a un continente di fatto. In primo luogo la crisi finanziaria ed economica in Cina praticamente non c'è mai stata. La recessione globale qui infatti ha significato semplicemente che da una crescita del 9,6% del PIL nel 2008 si è scesi all'8%, ma di nuovo già nei primi tre mesi di quest'anno il PIL cinese è cresciuto di un incredibile 12%, quasi 11,8%. Ancora le esportazioni cinesi sono aumentate moltissimo, del 28% anche qui nei primi tre mesi dell'anno, e il deficit, tema molto, molto delicato per quello che riguarda le economie europee e anche americane, in Cina è praticamente irrisorio. Il debito sul PIL tocca appena il 18%. E allora di questi temi e delle prospettive soprattutto per le nostre imprese ci occuperemo, e anche del ruolo che possono avere le banche nell'assistere le imprese italiane sul territorio. Siamo innanzitutto con il responsabile, direttore del Centro Studi di Banca Intesa, Gregorio De Felice. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, una battuta sulla Cina e poi veniamo alla parte degli investimenti italiani e dell'andamento dell'export italiano verso la Cina. Si è molto detto che il rischio in Cina era un rischio di inflazione non sotto controllo. Dai dati che lei ci ha fornito, in realtà sembra che grazie a questa grande politica di investimenti del governo cinese, 31% in più, 585 miliardi complessivi di dollari messi nel sistema, il tema dell'inflazione non sia un tema così delicato e così in qualche modo sintomatico di un possibile problema. Sì, l'inflazione cinese lo scorso anno ha avuto un andamento negativo, quindi è stata assolutamente sotto controllo, anche grazie ad una politica dei salari che sono addirittura diminuiti nel 2009. Ora abbiamo una piccola accelerazione con l'inflazione al 2,8%, ma credo che sia una dinamica dei prezzi assolutamente sotto controllo. Ciò che invece è un po' più preoccupante e pone qualche dubbio, qualche preoccupazione presso le autorità, è l'andamento dei prezzi delle case, che sono saliti del 20% circa, in particolare per quanto riguarda le case di più alta qualità. Tanto che la Banca Popolare Cinese, quindi la banca centrale della Cina, sta cominciando a fare una moral suasion per le banche di questo paese, perché rallentino il credito all'economia, che stava crescendo molto e che in qualche modo ha contribuito a un rialzo, a una cosiddetta bolla immobiliare qui in Cina. Allora, per quello che riguarda le nostre imprese, che insomma è il pubblico a cui ci rivolgiamo in questo viaggio in Cina, l'export cinese, dicevo, è comunque cresciuto del 28%, impressionante però anche la dinamica delle importazioni che ha fatto la Cina, quindi quelle che interessano anche più noi, più 60% le importazioni cinesi dovute anche a una domanda delle materie prime. Detto questo, io vorrei capire quali sono come si è mosso invece l'export italiano verso la Cina. La cosa interessante è che la nostra quota, se ho ben capito, del Made in Italy in Cina è rimasta invariata in questi anni, siamo intorno, se non ricordo male, all'1,7% del totale, però è quella che potrebbe sembrare una brutta notizia non è. Sì, perché se guardiamo invece alla Cina come mercato di sbocco delle nostre esportazioni, cioè delle esportazioni di prodotti italiani in Cina, abbiamo guadagnato quote di mercato, includendo anche Hong Kong, che fa parte sostanzialmente della Cina. La Cina rappresenta il 3% di destinazione delle nostre esportazioni. La Cina è il primo dei paesi emergenti verso cui vendiamo i nostri prodotti. La Cina è stata anche l'unico paese che nel 2009 ha visto un incremento delle esportazioni italiane. Lo scorso anno sono diminuite di oltre il 20% nel complesso, invece verso la Cina le abbiamo aumentate. Quindi stiamo guadagnando quote di mercato, pur partendo da un livello molto basso, un livello inferiore a quello tedesco, ma per esempio se ci confrontiamo con la Francia stiamo guadagnando più della Francia in molti settori, in settori importanti del nostro Made in Italy come la meccanica, ma anche come la moda. Un dato su tutti: il 35% della pelletteria che la Cina importa dal resto del mondo proviene dall'Italia. Nel campo dei mobili, le camere da letto, un quarto delle camere da letto che vengono importate dalla Cina sono italiane, e quindi questi sono motivi di orgoglio per la nostra imprenditoria, ma ci sono tanti esempi di questo genere. Ecco, per far capire a tutti però, com'è possibile che la nostra quota, cioè che la parte di Made in Italy fatto 100, quello che è diciamo la quota di prodotti esteri in Cina, sia rimasta all'1,7%, cioè invariata negli ultimi 5 anni, ma siano cresciute di oltre il 20% le nostre esportazioni verso la Cina? Apparentemente sono due dati in contraddizione. Beh, perché la crescita delle importazioni cinesi è molto più forte di quella rispetto a quella delle nostre esportazioni, quindi è una torta che diventa sempre più grande, quelle delle importazioni, e già il fatto di aver mantenuto invariata la quota, già questo è un aspetto importante. Per cui la quota nostra è rimasta invariata, ma si è allargata la torta complessiva, ecco perché abbiamo cresciuto sia in volumi che prodotto la presenza del Made in Italy in Cina, pur mantenendo una quota dell'1,7%. C'è un ultimo aspetto che spesso viene citato quando si pensa al Made in Italy in Cina e riguarda la creazione di una classe media, chiamiamola così, in Cina, una classe in grado di spendere, di comprare prodotti italiani che non sono solo il lusso. Lei ricordava giustamente come nelle macchine del tessile noi abbiamo quote importantissime, nella pelletteria, nel legno arredo, per cui non solo per la classe ricca, ma insomma come si stanno muovendo le cifre, quanti milioni siamo, visto che qua dobbiamo ragionare in categorie di decine di milioni quando parliamo di cinesi che hanno un potere d'acquisto che diventa interessante per tutto il Made in Italy. Sì, noi calcoliamo che ci sia un 7,5% della popolazione. La popolazione, come sappiamo, è enorme, superiore a 1.300.000.000 di persone che può acquistare prodotti italiani. Questo 7,5% può sembrare poco, ma in cifre sono circa 100 milioni di cinesi interessati a prodotti di importazione, quindi quello è il nostro bacino di riferimento. C'è anche un altro dato interessante: oggi la propensione al risparmio dei cinesi è particolarmente elevata, è intorno al 40%, questo avviene perché non ci sono sistemi pensionistici validi, il sistema sanitario lascia un po' a desiderare, quindi c'è forte risparmio precauzionale da questo punto di vista. Sono però in corso discussioni per una riforma sia dell'assistenza sanitaria sia delle pensioni. Se questo fosse effettivamente realizzato, si libererebbe ancora più domanda di beni di consumo, questo sarebbe di stimolo per tutto il mondo, perché il grande problema che abbiamo è che questo grandissimo paese tende soprattutto ad esportare e non a consumare abbastanza. Quindi man mano che se si può ridurre la loro propensione al risparmio, questo rappresenta un ulteriore stimolo per la domanda di beni. Grazie al direttore del Centro Studi di Intesa San Paolo, Gregorio De Felice. Grazie a voi, buonasera a tutti. Dottor Gaetano Micichè, Intesa San Paolo da sempre una presenza importante anche in Cina, voi però oggi avete, se non annunciato, chiarito a livello definitivo anche una riorganizzazione della vostra presenza a livello internazionale, sempre, se ho ben capito, con lo scopo di appoggiare a 360 gradi quella che è la presenza delle imprese italiane all'estero, quindi non solo la parte finanziaria ma anche la parte di consulenza. Come verrà riorganizzato il gruppo, o di fatto già lo è, per quello che riguarda la presenza internazionale di Intesa San Paolo? Sì, allora siamo già presenti in oltre 30 paesi. Due categorie di presenza: le banche retail, dove noi possediamo spesso il 100% di grandi realtà che sono sempre o la prima o la seconda dei paesi dove operano, prevalentemente nell'est Europa, anche in Russia, e poi invece il mondo corporate, cioè le filiali e due banche, in Lussemburgo e in Irlanda, che assistono le imprese italiane di tutte le dimensioni, quindi dalle piccole imprese alle medie e alle grandi imprese. Queste ultime sono divise in tre hub: New York, Londra e Hong Kong, e ciascuno di questi hub controlla numerose altre filiali nelle aree di propria competenza. L'obiettivo è quello di rendere sempre più accessibile il mondo estero, quindi il mondo dei mercati di sbocco, ma anche quelli dei mercati di approvvigionamento, non solo alle grandi aziende italiane come è stato nel passato, ma possibilmente trovare prodotti, reti, professionisti e quelli che io definisco i link, cioè quindi la possibilità di creare i contatti per le medie e piccole imprese che hanno minore capacità di conoscenze e minore capacità di relazioni. Ecco, voi li avete chiamati hub sull'esempio, diciamo, aeroportuale, perché se ho ben capito il loro ruolo sarebbe anche di sgravare quello che poi l'attività delle filiali sul territorio, cioè a Shanghai resteranno come in altre parti del mondo, ma diciamo di sgravare da quelli che sono servizi che tecnicamente si chiamano di back office o di middle office, tant'è che se ho ben capito il vostro hub sull'Asia, cioè Hong Kong, avrà addirittura o ha già una settantina di persone impiegate. Che cosa vuol dire sgravare poi le filiali bancarie da tutta una parte, diciamo, che non sarà più di loro competenza? Sì, l'hub, per esempio lei ha citato l'Asia, quindi parliamo dell'hub di Hong Kong. L'hub di Hong Kong segue anche la filiale di Shanghai, la filiale di Singapore, la filiale di Tokyo e gli uffici di rappresentanza di Pechino e in Vietnam. Sgravarle vuol dire, attraverso l'hub, fornire tutta l'assistenza amministrativa, contabile, di compliance, di rischi, di credito, cioè far sì che invece tutte le filiali, le altre, siano vocate allo sviluppo, siano vocate all'operatività, siano di fatto in giro a battere il territorio per cercare clienti e soprattutto clienti al servizio delle aziende italiane, che poi è la base della nostra attività. Ecco, siccome noi abbiamo un pubblico anche e soprattutto fatto di piccoli, medi, ma piccolissimi imprenditori, le strutture più che prodotti, in senso stretto, che offrirete a chi vuole sbarcare su mercati esteri distanti, come la Cina, se ho ben capito si chiamano Trade Away una e Export a 360 gradi l'altra. Può ricordarci brevemente quali sono le caratteristiche? Sì, prima di tutto in Italia abbiamo creato una nuova struttura che si chiama Servizio all'internazionalizzazione delle imprese, è collocato a Padova, vede alcune delle migliori professionalità delle banche vocate a ricercare quelle che possono essere le necessità di sbocco, ripeto, di approvvigionamento delle piccole e medie imprese. Tutto questo lo fa attraverso le relazioni e database della banca, attraverso i contatti con tutte le realtà internazionali della banca. Per quanto riguarda Export 360 è un prodotto che si prefigura di mettere al servizio delle piccole e medie imprese soprattutto altri 4 miliardi di euro di linee di credito, e che farà sì, dal momento in cui l'impresa esportatrice incomincerà a pensare all'operazione, al momento in cui materialmente consegnerà il prodotto o il servizio, di vedere un ciclo di finanziamenti che gli consenta di poter soddisfare le esigenze primarie dell'azienda in ciascuna fase. Quindi ancora prima di ricevere l'ordine avrà un prefinanziamento per incominciare a preparare la materia prima o comunque i semilavorati. Poi ne avrà un altro di importo superiore all'ordine, ne avrà un altro di importo ancora superiore quando venderà e distribuirà il prodotto, e infine totalmente finanziato attraverso operazioni di credito prosoluto una volta che maturerà il credito per intero. Ecco, facciamo un esempio concreto: sono un'impresa di piccole e medie dimensioni, ricevo un ordine da 200, 300 o anche mezzo milione di euro. Come funzionerà questo aspetto di finanziamento prima dell'incasso, in senso stretto, da parte di Intesa San Paolo? Si verrà consentita una linea di credito almeno pari al 40% dell'incasso presunto, che poi diventerà tra il 55 e il 60% al ricevimento dell'ordine, che poi si trasformerà in un credito all'80% una volta consegnata il prodotto e quindi emessa la fattura, e che poi su richiesta del cliente potrà anche vedere un finanziamento totale nel caso in cui voglia cedere alla banca stessa il credito prosoluto, e quindi affrancandosi definitivamente sia a livello di bilanci, sia per quanto riguarda il debito che per quanto riguarda il credito, degli attivi rinvenienti dall'operazione. Ancora un esempio, ma di carattere più generale sul paese. Voi avete fatto notare, insomma, che le sofferenze bancarie, che poi non è un dato assolutamente segreto, sono aumentate nel 2009 del 39%. E quindi state gestendo anche una difficoltà forte che obiettivamente non vediamo in netta diminuzione del sistema economico italiano. Io vorrei capire se immaginate che comunque il sistema di imprese italiano possa tornare ai valori pre-crisi, e poi capire anche come accompagnerete le imprese. Beh, noi veniamo da due anni, 2008-2009, con un PIL particolarmente negativo. Abbiamo perso importanti quote di mercato, abbiamo perso livelli di competitività. Tutto questo si è ovviamente rappresentato in fatturati in decrescita, in performance economiche peggiori di quelle precedenti, in posizioni finanziarie nette più appesantite e quindi in maggiori sofferenze per il sistema bancario. Il dato che lei ha citato del 39% è un dato citato dall'ABI, ma ciò non toglie la voglia, la fiducia e l'obiettivo di quella che è una banca come Intesa San Paolo di favorire la crescita e il ritorno a condizioni, diciamo, pre-crisi. Per fare questo abbiamo tutta una serie di strumenti a disposizione, che sono non solo i finanziamenti tradizionali al circolante, ma anche forme di intervento nel momento in cui si vogliono finanziare l'innovazione delle imprese, si vuole finanziare l'internazionalizzazione e si vogliono anche raggiungere dimensioni critiche minimali, che sono quelle che oggi consentono di competere, soprattutto si vuole competere non solo nel nostro paese ma anche a livello internazionale. Questo lo facciamo con tante opportunità di credito e anche con dei fondi di private equity per accompagnare le aziende in questo processo. Non ultimo questo fondo realizzato su iniziativa del Tesoro, che è un fondo che vede già attribuito 1 miliardo di euro alle aziende che vorranno approfittarne. Ecco, ma quando lei dice, l'ultima domanda che ho per lei, che il vostro obiettivo è di accompagnare un'impresa, diciamo, dalla nascita anche all'eventuale fine, dalla culla alla bara, si diceva nel welfare britannico, volete fare un welfare bancario di impresa? Cioè, è interessante questo principio? No, io devo dire, sin da quando ho iniziato a lavorare in questa banca, ritengo che una grande banca ha uguali doveri rispetto ai diritti. Una grande banca è una grande istituzione, vive, cresce, e quindi la crescita di una banca vuol dire sviluppo, internazionalizzazione anche della banca, assunzione, miglioramento del rating, della capitalizzazione di borsa, soddisfazione insomma di tutti gli impiegati e tutti gli stakeholders della banca attraverso la crescita del paese per il quale opera. E quindi noi abbiamo un interesse diretto aiutato a far sì che le aziende italiane migliorino, diventino più competitive, diventino se possibile più grandi o comunque delle dimensioni adatte per poter competere. Non si compete oggi più solamente col prodotto, con i sistemi diciamo produttivi, si compete con l'intelligenza, col coraggio, con l'innovazione, quindi con la voglia anche di rischiare in nuovi processi, in nuovi prodotti, e si compete anche guardando il mondo con occhi diversi, guardando il mondo con una voglia di raggiungere mercati fino ad ora inesplorati, e per farlo questo io credo che l'appoggio di una banca come Intesa San Paolo sia determinante. Quindi è un gioco a doppia vittoria, se mi consente, dove se saremo bravi insieme e se ci daremo fiducia insieme probabilmente ne avremo raggiunto, raggiungeremo risultati importanti. Questo comunque accompagnando l'impresa nel suo ciclo vitale? Sì, io la bara che lei ha definito preferirei evitarla, voglio dire, ma nell'interesse del cliente oltre che per noi. E come dicevo questa mattina, le aziende vivono così come i prodotti di sviluppo di un periodo di maturità e di un periodo di declino. Bisogna possibilmente cercare di anticipare tutte queste fasi, di intuirle per tempo e trovare i correttivi o diciamo gli appoggi per ciascuna fase. Un declino non vuol dire che un'azienda debba per forza morire, ma probabilmente deve riposizionarsi a livello competitivo, deve ricercare nuovi mercati, deve cercare una struttura patrimoniale differente e probabilmente rinascere o rifondarsi con criteri e con prospettive diverse. Grazie, grazie direttore generale e responsabile della divisione corporate di Intesa San Paolo, Gaetano Micichè. Grazie a voi. E con questa intervista si conclude il nostro primo approfondimento, Simone, sulla Cina. Poi torneremo a parlarne, perché abbiamo intervistato oggi anche il numero uno di Luxottica, Andrea Guerra, che ha annunciato, ve lo posso già dire, il raddoppio degli esercizi dei negozi di Luxottica in Cina. Sono 250, diventeranno 500, e ci ha anche raccontato cosa ha imparato il gruppo Luxottica dagli errori commessi quando 13 anni fa per la prima volta sbarcò in Cina. A te, Simone. Le 17:41 minuti, 22 secondi, dati positivi dunque per i conti pubblici italiani, perché nei primi 5 mesi del 2010 si è registrato un fabbisogno di 50 miliardi e 100 milioni, inferiore di circa 6 miliardi e 100 milioni a quello dello stesso periodo del 2009, grazie soprattutto allo scudo fiscale e alla riduzione dell'onere per gli interessi sul debito pubblico. Questi dati appena diffusi sui conti pubblici dal Ministero dell'Economia. È il momento dei mercati. Andrea Fontana, Radio Core, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, le cose rispetto a come si era aperta la mattinata sono andate piuttosto bene, anche se la chiusura è negativa. Certamente il pomeriggio, con la tenuta di Wall Street e con indicazioni sopra le attese dai dati americani, in particolare dalle spese per le costruzioni nel mese di aprile e dall'indice sull'attività manufatturiera di maggio, hanno dato, diciamo così, una sorpresa positiva ai mercati e hanno permesso di ridurre le perdite di quella che si prospettava come un'altra giornata di passione sui mercati. In realtà però le borse non sono riuscite a chiudere, diciamo, sui massimi di seduta, perché poi nell'ultima mezz'ora sono tornate le vendite, che hanno colpito in modo particolare Milano, che è stata comunque la peggiore un po' nel corso di tutta la giornata, e ha fatto anche peggio dell'indice spagnolo, dell'Ibex, che ha perso lo 0,64%, mentre Milano ha perso praticamente il doppio, cioè l'1,3%. Sì, l'1,3% sul FTSE MIB, l'1,18 se non erro, l'1,21 sul FTSE All Share. Citavi i dati sull'edilizia: in aprile un più 2,7% la spesa edilizia negli Stati Uniti, il maggior rialzo dal 2000, e poi l'ISM manifatturiero a maggio sceso a 59,7, ma gli analisti si attendevano un dato a 59. A dominare la giornata in negativo i titoli bancari. Sì, un una brutta giornata dei bancari, su cui è pesato soprattutto le indicazioni arrivate dalla BCE ieri sera, mercati chiusi, che nel rapporto, appunto la BCE nel rapporto semestrale sulla stabilità finanziaria dell'Eurozona ha individuato rischi di svalutazioni nette per il sistema finanziario dell'Eurozona per 90 miliardi nel 2010 e per 105 miliardi nel 2011, svalutazioni su prestiti e titoli, e questo ha penalizzato fortemente l'intero settore, in particolare quello italiano e milanese, che vediamo un po' nel mirino nelle ultime settimane, tant'è vero che Unicredit ha perso il 4,5%, Intesa ha perso oltre il 3% e nessun istituto bancario tra i principali ha chiuso in positivo. Allora, andiamo ai petroliferi, perché oggi sono stati naturalmente colpiti in linea di massima dalle vendite, causa anche British Petroleum, che è arrivata a perdere il 15% sulla borsa britannica a causa naturalmente della vicenda del Golfo del Messico. Eppure Saipem giù, Eni invece chiude con un rialzo di 0,5%. Andrea, come mai? Eni ha fatto un buon recupero nel pomeriggio, quando i difensivi sono un po' emersi come titoli da acquistare da parte degli operatori. Saipem, c'è da dire che è stata anche penalizzata da cattive indicazioni per quanto riguarda da parte di alcune banche d'affari, che consigliano appunto cautela su un titolo che comunque nell'ultimo anno ha guadagnato il 46%, quindi è uno dei titoli che nel bilancio, diciamo così, sui 12 mesi ha ancora qualche margine permette ancora qualche margine agli operatori. Come tu ricordavi, la correzione del prezzo del greggio certamente anche la questione British Petroleum non hanno favorito una giornata positiva per l'intero settore petrolifero. Brevissimamente, Andrea, Buzzi Unicem ed Edison. Per quanto riguarda Buzzi Unicem, ancora una giornata difficile come per l'intero settore delle costruzioni. Tra l'altro oggi è uscita una nota di Goldman Sachs che consiglia appunto di alleggerire le posizioni sul gruppo cementiero piemontese. Per quanto riguarda Edison invece, ha viaggiato in controtendenza grazie alle indicazioni emerse ieri dall'assemblea di uno dei due soci di riferimento di Edison, cioè A2A. Il riassetto nell'azionariato di Edison sembra insomma essere accelerato dal socio milanese A2A, che ha scritto una lettera all'altro socio, cioè ai francesi di EDF, per appunto avviare trattative concrete sul riassetto nell'azionariato, e questi possibili movimenti sono stati ben accolti al mercato. Edison ha fatto più 2,4 in un mercato che, come ricordiamo, ha perso circa l'1,3%. Bene, per chiudere con gli altri titoli positivi, c'è Campari che ha guadagnato 1,0,73%, Enel 1,0,60% di Eni si diceva, bene Snam 0,5%, Bulgari più 0,33% naturalmente, Autogrill più 0,05%, Pirelli in perfetto pareggio, tutto il resto appunto sono titoli in negativo. Grazie Andrea Fontana di Radio Cor Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. E veniamo all'altro tema di giornata, ossia i dati che sono stati diffusi dall'Istat sul mercato del lavoro in Italia ad aprile. A chi ci chiede via SMS se oggi non escono i dati auto, sì, escono dopo le 18, e quindi naturalmente nella seconda parte del programma vi accenneremo. Per quanto riguarda il tema della disoccupazione, ci sono i dati europei. Ad aprile è salita al 10,1% dopo il 10% registrato a marzo. In Germania si registra un calo al 7,7% a maggio, dal 7,8% del mese prima. Per quanto riguarda l'Italia c'è un 8,9% al top dal 2001, la disoccupazione giovanile al 29,5% al massimo dal 2004. Secondo l'Istat, ad aprile ci sono stati 307.000 occupati in meno rispetto ad un anno fa, e 2.200.000 disoccupati ad aprile, in aumento in particolare gli uomini. Saluto il professor Carlo Della Ringa, docente di economia politica all'Università Cattolica di Milano, editorialista del Sole 24 Ore. Professore, buonasera. Buonasera a me e agli ascoltatori. Allora, prima di sentirla, io farei sentire che cosa ha detto poco fa ai microfoni di Teresa Trillò, collega di Radio Cora, il Sole 24 Ore, che sta seguendo anche lei la missione degli imprenditori in Cina, la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. Peggioramento c'è, siamo all'8,9% di disoccupazione, il dato peggiore dal 2001, però dall'altra parte vediamo alcuni dati in miglioramento in termini di produzione industriale. Sta succedendo quello che un po' avevamo previsto, cioè la disoccupazione arriva con un certo ritardo rispetto al momento peggiore della crisi che abbiamo avuto negli scorsi mesi, però questa accelerazione sulla produzione industriale che stiamo vivendo dovrebbe far pensare che il picco della disoccupazione l'abbiamo raggiunto, e adesso anche in termini di tasso di disoccupazione dovremmo, auspichiamo e speriamo, migliorare nei prossimi mesi. Questo dunque è l'auspicio della presidente degli industriali Emma Marcegaglia. Per quanto riguarda il ministro del welfare Maurizio Sacconi, dice che il dato sulla disoccupazione è in aumento perché cresce chi si rimette a cercare un impiego, visto che vede dei segnali di ripresa, e quindi sostanzialmente questo aumento della disoccupazione è nella sostanza un fattore tecnico. Allora, professor Della Ringa, ci dia la sua visione, la sua opinione. No, la disoccupazione è ancora in leggero aumento e non penso che invertirà la tendenza molto presto. Sono convinto anch'io che con i primi segnali della ripresa produttiva, sperando naturalmente che la manovra del governo non contribuisca un pochettino a decelerarla, ma con i primi segnali della ripresa si intravede un miglioramento sul versante dell'occupazione. Però io penso che la disoccupazione ancora per un po' di tempo ristagnerà a questi livelli prima che ci sia un effettivo miglioramento. Però penso anch'io che anche questi leggeri peggioramenti dello 0,1 siano limitati, quasi al limite dell'errore statistico, quindi probabilmente abbiamo raggiunto il picco. Quindi non è la jobless recovery della quale tanto si è parlato, ossia una ripresa senza occupazione, cioè l'emorragia di posti di lavoro sembra essersi fermata, secondo lei? Guardando i dati tendenziali sulla riduzione dei posti di lavoro c'è un miglioramento, quindi probabilmente c'è anche una piccola ripresa, certamente non sarà una fortissima ripresa perché prima di quella bisognerà recuperare tutta la produzione persa, e anche dal punto di vista dell'industria c'è un buon recupero, ma ricordiamo che abbiamo avuto una perdita molto grossa. E veniamo a quella che tutti ormai considerano, e ha ragione, la vera emergenza, che è la disoccupazione giovanile. Non a caso se ne è parlato moltissimo l'altro giorno con la presentazione del rapporto annuale dell'Istat. Ne è tornato a parlare lo stesso Istat, lo stesso Istituto di Statistica oggi, e ne ha parlato il governatore della Banca d'Italia nella sua relazione annuale all'Assemblea del 31 maggio, quindi di ieri. Dicendo sostanzialmente, parlando Draghi di disagio dei giovani, e aggiungendo un elemento che ci è parso particolarmente interessante, il governatore della Banca d'Italia ha collegato direttamente la disoccupazione giovanile alla disoccupazione nelle fasce più avanzate di età, dicendo che nei paesi a più alta occupazione nelle fasce di età più anziane, se così possiamo definirle, c'è anche una più alta occupazione giovanile. Come sono collegati questi due fattori, professor Della Ringa? Io penso che il governatore voleva dire una cosa molto semplice: confutare la tesi secondo cui per dare posto ai giovani bisogna mandare gli anziani in pensione. Falso, e lo dimostrano i paesi in cui gli anziani lavorano in misura maggiore che in Italia, e anche i giovani trovano più posti di lavoro. Il che vuol dire che i posti di lavoro non sono dati, non si tratta solo di distribuirli quello che è dato, è possibile aumentare gli uni e gli altri. Certamente in questa fase molto complicata in cui il nostro modello di ammortizzatori ha difeso i lavoratori con i posti in modo molto efficace, e si doveva fare così, Certamente coloro che sono lì alla finestra in attesa che si liberino i posti soffrono un po'. A questo punto bisognerà veramente, come si preannuncia di fare, da quello che si dice, mettere in atto delle politiche, della formazione, del lavoro che cerchino di combinare meglio alcuni posti di lavoro esistenti che ci sono con i giovani che sono disoccupati. Bisogna adattare anche le aspirazioni e le ambizioni. Un'ultimissima domanda e brevissima, professor Della Ringa, la soluzione sembra essere sempre quella, la crescita economica, cioè nel momento nel quale si parte con lo sviluppo, riparte anche l'occupazione. Certamente, le politiche del lavoro e della formazione sono palliativi, importanti, servono per tenere in circolazione i giovani, ma posti stabili, duraturi, di buon livello possono venire solo con una ripresa produttiva. Grazie dunque al professor Carlo Della Ringa, docente di economia politica all'Università Cattolica di Milano ed editorialista del Sole 24 Ore, per essere stato con noi. Buonasera professore. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Le 18:09, di nuovo una buona serata da Simone Spezia. Sono stati appena diffusi i dati sulle immatricolazioni auto per quanto riguarda l'Italia. Il mercato prosegue negativo e a maggio totalizza 163.700 consegne, la flessione del 13,8%, ad aprile la flessione era stata del 15,6%. E ancora, per quanto riguarda Fiat, il calo è del 25,06% e ad aprile il gruppo aveva fatto segnare un altro calo del 26,25%. Infine, il dato sulla quota di mercato di Fiat, che ha segnato a maggio una quota appunto del 29,83%, in calo rispetto al 34,33% di un anno fa. Ad aprile la quota era al 30,7%. E adesso noi torniamo ad occuparci di Cina con l'avvio, come si diceva, della terza missione imprenditoriale italiana nel paese, che è organizzata da ICE, Confindustria e ABI. Sono 230 le aziende, 600 gli imprenditori, 9 i gruppi bancari, 18 associazioni industriali. Tra un attimo torneremo a ricollegarci con Sebastiano Barigioni da Shanghai. La prima tappa però è stata il distretto di Chongqing, 32 milioni di abitanti. Il perché di questa scelta lo ha spiegato Paolo Zegna, vicepresidente di Confindustria per l'internazionalizzazione, intervistato da Teresa Trillò. Allo stesso modo in cui è giusto non guardare solo ai quattro settori tradizionali ma anche ad altri, non è giusto solo concentrarsi sulle città tipiche che si conoscono e si frequentano maggiormente, da Shanghai a Canton a Pechino. Oggi la realtà di Chongqing, una crescita della sua economia del 14% all'anno, indubbiamente è una di quelle realtà dove bisogna, anche magari partendo da più indietro, che comunque è una zona più arretrata rispetto alle città di costiera, bisogna guardare anche realtà come queste, e mi risulta che ci siano 40 città in Cina, oltre i 4 milioni di abitanti, perché potenzialmente tutte possono essere ricettive di qualche prodotto italiano. Quante sono le aziende interessate a partecipare a qualche attività in questa zona? Quelle che abbiamo portato qui sono circa 150 aziende. Sono un inizio, perché per tanti è una scoperta. Contiamo di essere, nel proseguo poi delle azioni nei confronti di questa città, più specifici, e quindi anche a seguito di questa missione, vedendo quali sono i settori che faranno più prese, che avranno più possibilità, fare poi magari delle missioni più particolari, più concentrate appunto sui settori che hanno più possibilità. Sicuramente i beni di consumo, perché sta crescendo il reddito pro capite, ma credo che effettivamente con i problemi di inquinamento, di maggiore sensibilizzazione che oggi hanno ai problemi legati all'ambiente, ci sono anche questi aspetti che potranno essere delle opportunità. E torneremo a parlare di tutto questo subito dopo la viabilità. Prima un paio di notizie che sono state appena diffuse dalle agenzie e che arrivano dalla relazione tecnica al decreto legge sulla manovra finanziaria. Un paio sono interessanti. La prima riguarda la scure sugli stipendi dei manager della pubblica amministrazione. La scure, che cadrà su 26.400 stipendi, questo si apprende, frutterà alle casse dello Stato circa 29 milioni di euro. E ancora un'altra notizia che riguarda i pedaggi sulla rete autostradale ANAS e sui raccordi autostradali, che potranno scattare già dal 1 luglio, e quanto appunto chiarisce questa relazione tecnica. Adesso noi diamo la linea alla viabilità, ci ritroviamo subito dopo e ci collegheremo di nuovo con Shanghai. E dunque ci ricolleghiamo con la Cina, con Sebastiano Barisoni, che sta seguendo questa terza missione nel paese. Sebastiano, di nuovo buonasera. Sì, di nuovo buonasera a te Simone. Allora, come abbiamo già annunciato, ascoltiamo l'intervista che abbiamo realizzato con Andrea Guerra, numero uno di Luxottica, appunto, che ci ha anche anticipato il raddoppio della presenza di Luxottica in Cina, da 250 a 500 punti vendita nel paese, e ci ha anche fatto capire, insomma, che cosa si può imparare dagli errori e qual è anche il portato dell'esperienza che Luxottica ha avuto in questi anni in Cina. Noi siamo da ormai 13 anni, abbiamo fatto vari passetti di ingresso. Il primo ovvio è stato quello della produzione, in cui dal primo giorno abbiamo sempre pensato a dei centri di produzione identici a quelli nostri italiani, quindi in termini di tecnologie di processo, tecnologie di produzione, uno può entrare nei nostri stabilimenti veneti o nei nostri stabilimenti cinesi, esattamente stessa tecnologia. Da lì siamo passati a dei centri logistici che servono tutto il mondo, e poi piano piano nel 2006 abbiamo deciso l'ingresso della Cina da un punto di vista di retail. Era il momento in cui il WTO cambiava le regole, quindi dava l'apertura degli stranieri in Cina, e c'era questa grande cosa: la Cina è l'inferno o il paradiso? E per cui noi abbiamo deciso di dare una risposta che non è né l'inferno né il paradiso, ma di entrarci direttamente. Abbiamo preso questa decisione in modo molto sereno, però abbiamo deciso di entrare senza partner, senza franchisor, senza licenze, senza noi, in modo indipendente. Eravamo ovviamente sicuri di trovarci davanti nei prossimi 15-20 anni forse il mercato più grande del mondo. E allora abbiamo ritenuto che fosse indispensabile entrare per conto nostro e, a seconda di come si mettono le cose, fare tutte le esperienze del mondo, tutti gli errori del mondo inizialmente, farci le ossa, capire come funzionava. Abbiamo realizzato 4 acquisizioni, le abbiamo raggruppate tutte sotto un unico marchio, che è Lens Crafters, che è il nostro marchio fondamentale del retail ottico in America, e da lì siamo partiti. Siamo partiti ovviamente commettendo i soliti errori che si commettono quando si arriva in un paese, anche avendolo studiato sulla carta e a tavolino a lungo. Non avevamo ben capito chi erano i nostri concorrenti, non avevamo ben capito come funzionava il mercato immobiliare. Però sicuramente oggi, dopo 4 anni, è un posto in cui siamo estremamente soddisfatti. Cominciamo oggi a vedere i primi utili, vediamo delle crescite straordinarie anche l'anno scorso, in cui tutto il resto del mondo occidentale aveva più difficoltà, e abbiamo anche ormai deciso di raddoppiare la nostra presenza in retail, e quindi ci siamo dati come obiettivo per il 2013 di arrivare a 500 negozi in questo paese. Quindi raddoppierete di fatto la presenza nella distribuzione in Cina, da 250 a 500 negozi, che non sono poca cosa. Prima di arrivare poi ad altri elementi, gli errori a cui lei faceva riferimento, perché io penso che sia importante anche per le imprese che ci ascoltano, per gli imprenditori che non sono ancora sbarcati in Cina, che forse hanno intenzione di venire a capire, non tanto nel campo specifico come il settore dell'occhialeria, ma in generale da un punto di vista manageriale, che dagli errori si impara e gli errori in Cina si fanno. Ecco, se dovessi citare dei casi anche molto concreti di errori, se vogliamo quasi culturali, voi venivate da un'esperienza importantissima negli Stati Uniti e forse avete pensato di sbarcare in un continente, di fatto la Cina lo è, come la Cina, con un approccio simile a quello americano? Allora, sicuramente quando parliamo di errori o di esperienza, il tema culturale è il tema numero uno. Non voglio solamente dire che noi siamo arrivati con una mentalità americana, e ovviamente questa non è una mentalità americana, ma sicuramente l'arrivare in un posto come la Cina, che è un continente, non è una nazione, pensare che le diverse città o i diversi distretti siano identici è ovviamente sbagliato. E il mio consiglio fondamentale è quello di radicarsi, di investire in infrastruttura, investire in organizzazioni, investire in persone. Questo è il tema culminante. Non pensare di avere un ritorno dopo 6 mesi, una botta e via, dopo 12 mesi. No, bisogna avere un'iniziativa di lungo periodo, bisogna veramente avere voglia di capire, portare avanti le proprie idee, adattare in continuazione le proprie idee, essere rapidissimi. Questo è un paese straordinariamente rapido, in cui in continuazione devi avere veramente nuove idee da portare al consumatore, nuove idee da portare ai gestori degli immobili e anche in termini di organizzazione. Ecco, concretamente però, per fare capire, cioè quando lei ricordava che insomma la legislazione anche dal punto di vista fiscale è molto diversa da regione a regione, voi con che problemi pratici vi siete trovati ad avere a che fare e che concorrenti avete dovuto combattere in un settore come quello dell'occhiale, che insomma chiaramente è un settore ad altissimo tasso di concorrenza? Si immagina che ogni municipalità, quando noi siamo arrivati, aveva la propria IVA, e quindi evidentemente questo portava un lavoro burocratico e amministrativo di un certo tipo, in cui poi ci sono... però penso che poi questo, come italiani, abbiamo una buona facilità ad adattarci. Dall'altra parte avevamo fatto analisi sulla concorrenza, poi nel tempo abbiamo realmente capito che il nostro vero concorrente era l'ospedale e non le altre catene che vendevano occhiali. E per quello che riguarda, per esempio, altro elemento interessante per chi volesse aprire un'attività commerciale, non solo di rappresentanza qui in Cina, per quello che riguarda l'assetto, diciamo così, dei contratti immobiliari, perché poi questo interessa l'imprenditore che volesse aprire più di un punto vendita? Sono tutte durate molto brevi, vanno al massimo dai 2 ai 3 anni. La cosa buona è che sicuramente c'è un rigiro continuo di nuove opportunità, nuovi negozi, nuovi mall, nuovi department store. Dall'altra parte devi anche lì essere sempre vivo e attento, perché da un giorno all'altro, come possono aprire una fermata di nuova metropolitana accanto al tuo negozio e quindi sei molto felice, o svegli la mattina, tiri sulla serra cinesca il tuo negozio e il quartiere che aveva davanti non c'è più. E quindi è evidente che la velocità, la capacità di essere flessibili, credo che siano degli elementi fondamentali di avere successo qui in Cina. Da lì anche questa definizione che lei ha dato di negozi sulle rotelle, in qualche modo, cioè pronti a prenderli, smontarli e riposizionarli da un'altra parte, come Luxottica? È così, penso che quando dico velocità, è velocità in tutto, velocità in capire come cambia la legge, capacità a capire che se dopo 2 anni ti viene chiesto di modificare e di cambiare il tuo negozio, la location del tuo negozio, è impensabile buttare giù tutta l'infrastruttura e gli arredamenti del tuo negozio, ma devi aver ragionato su delle logiche modulari e riuscire a trasferire il tutto. Ma in tutti i paesi emergenti, la velocità e la flessibilità e la capacità di adattarsi in continuazione alle esigenze che cambiano, credo che siano le caratteristiche vincenti di qualunque impresa. Dottor Guerra, veniamo anche invece all'analisi del futuro che un gruppo come quello che lei dirige, come Luxottica, può comunque recepire con la presenza in così tanti paesi. Lei che destino vede per l'Italia, sempre da un punto di vista del mondo dell'impresa e dei servizi, quando poi i tassi di crescita, gli unici, oserei dire, tassi di crescita si stanno realizzando in Brasile, in Cina e in India? Diventeremo un paese in proporzione più piccolo nel peso del commercio mondiale? Allora, il fatto che noi saremo un pochino più piccoli nel futuro lo dicono i numeri, le dinamiche della popolazione, le dinamiche della crescita del reddito individuale in questi paesi, come hanno retto questi paesi le crisi. È evidente che nei prossimi anni l'Italia sarà un pochino più piccola rispetto ad oggi, perché non significa marginale, però deve avere un ruolo diverso, deve avere una capacità di stare in questo mondo, di stare più fuori all'Italia rappresentando l'Italia, e per cui sicuramente deve avere anche delle persone, deve avere delle modalità, delle strutture di aiuto. all'estero abbastanza diverse. Io penso che le nuove generazioni, i giovani dell'Italia sicuramente devono avere una caratteristica in più, essere dei veri cittadini del mondo, avere la capacità di vivere, di lavorare, di veramente impegnarsi in giro per il mondo, non per i 2, 3, 4 mesi che può essere un Erasmus, ma sicuramente passare dei lunghi tratti della propria vita all'estero. Credo che questo sia assolutamente fondamentale. Simone, qui da Shanghai è veramente tutto. Domani, giornata molto importante, si celebra infatti anche la festa della Repubblica e avremo modo di visitare il padiglione italiano all'Expo e poi una conferenza stampa congiunta della Presidente Confindustria Emma Marcegaglia e del numero uno di Banca Intesa Corrado Passera. Grazie dunque Sebastiano anche per oggi, ci risentiremo quindi naturalmente domani per continuare a seguire questa terza missione in Cina degli imprenditori e delle banche italiane. Come avete sentito, insomma, anche oggi novità importanti in questo caso dal fronte di Luxottica. A me non resta che ricordarvi come sono andate oggi le cose sui mercati e darvi ancora quel che sta succedendo sul mercato americano. Il Dow Jones in questo momento guadagna lo 0,35% dopo un'apertura negativa, il Nasdaq cede lo 0,05%, i futures davano insomma indicazioni molto peggiori prima che aprisse la borsa americana, dati quelli americani che hanno confortato le piazze finanziarie europee che avevano aperto con cali nell'ordine dei 2-3 punti percentuali e la peggiore era Milano. Milano che ha chiuso con il FTSE MIB in calo dell'1,35% e il FTSE All Share dell'1,21%, con vendite che hanno colpito, come sempre sta succedendo in questi giorni, soprattutto i bancari. Euro che quota 1,22,8 contro dollaro in questo momento. È tutto anche per questa puntata di Focus Economia. Un ringraziamento a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi in redazione, a Fabio Cantadori in regia. Un grazie a tutti voi per l'ascolto, da Simone Spezia. Ci sentiamo domani dopo il GR delle 17. Radio 24. La passione si sente.